Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16 e 33 minuti, Luca Tremolara, Luca Dello Iacovo. Buongiorno. Ultima settimana di Nova Lab 24, poi si va tutti in vacanza, anzi no, perché Dello Iacovo continuerà a dragare per voi e per noi il... Che cosa draghi? Niente. Il drago, quello che succede adesso è quello che... soprattutto poi anche quello che sta cambiando in questo momento anche il mondo dell'innovazione, per quello che riusciamo a vedere, insomma, per quello che riusciamo... La banda di Nova Lab 24 torna sul territorio con obiettivi più o meno ludici, più o meno estivi, ma quello che è importante è che continuiamo, insomma, a provare a raccontare a modo nostro quello che accade nel mondo della ricerca, della tecnologia, della scienza. Ma prima un po' di attualità con le news. Facebook attira investimenti per 160 milioni di dollari. Il fondo Elevation ha acquistato 5 milioni di azioni del social network. La valutazione complessiva della rete sociale online arriva a 14 miliardi di dollari. Facebook ha annunciato che non intende quotarsi in borsa, ma vuole puntare sullo sviluppo tecnologico e sui servizi per gli iscritti. Cambio ai vertici di Second Life, il mondo virtuale tridimensionale popolato dagli avatar. Torna alla guida dell'azienda il fondatore, Philip Rosedale. Finora Second Life ha puntato sull'integrazione con i browser per navigare online e sulla vendita di beni digitali costruiti dagli utenti. Inaccessibile in Svezia il sito The Pirate Bay, già condannato per violazione del diritto d'autore. Il Tribunale di Stoccolma ha ordinato a un gestore di accesso al web, Black Internet, di impedire ai suoi utenti l'approdo nella baia dei pirati informatici. Un anno fa i giudici avevano imposto a Black Internet di rimuovere The Pirate Bay dai loro server o di pagare una multa pari a 64.000 euro. E allora, insomma, non l'abbiamo detto all'inizio, però insomma la puntata, se dico un'altra volta insomma bloccami Dello Iacovo, la puntata è dedicata all'ambiente, anzi a coloro che riescono a trasformare l'ambiente in una risorsa da valorizzare, perché no, una risorsa economica. Sì, che puntano appunto sulla tecnologia, sulla, a partire dalla ricerca, quindi dal laboratorio, e come poi la ricerca di laboratorio riesce a farsi impresa e a valorizzare poi la natura e l'ambiente in declinazioni anche originali. Il primo caso che andiamo a vedere è quello di Massa Spin-off, che è un'azienda che è nata dall'Università di Firenze e dal CNR, e direi a questo punto... E che fa cose, diciamo, un'azienda, che uno spin-off che fa cose. Noi abbiamo con noi Giovanni Baldi, l'amministratore delegato di Massa Spin-off. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ascoltiamo insieme la scheda di Luca Dello Iacovo. Biogas, monitoraggio di aree industriali e urbane, controllo delle emissioni diffuse. Sono alcune attività di Massa Spin-off, un'azienda fondata dall'Università di Firenze e dal CNR, con la collaborazione di partner industriali. La ricerca di laboratorio trasforma i rifiuti in fonte di energia, attraverso processi efficienti per ricavare biogas dalle discariche. L'ultima frontiera è l'analisi della filiera agroalimentare. Fondata nel 2007, ha raggiunto nel 2009 un fatturato di 1,8 milioni di euro. Che non sono pochi 1,8 milioni di euro aziende che lavorano in questo, insomma, settore assolutamente di frontiera. Baldi. Sì, non sono pochi, considerando che lo spin-off è tipicamente uno strumento societario che è stato poco visto come una vera e propria impresa che opera sul mercato. In effetti è una tipologia di impresa sicuramente innovativa e che dovrebbe essere utilizzata molto di più come modello per trasferire tecnologia sul mercato. Perché avete pensato all'ambiente quando magari in un momento in cui non tutti condividevano quest'idea che l'ambiente potesse poi diventare anche una fonte di impresa ed essere un luogo di ricerca, di sviluppo? Ma guardi, devo essere sincero, noi siamo partiti a pensare all'ambiente perché siamo nati all'interno dell'università e del CNR, in particolare di un istituto che è l'Istituto di Geoscienze e Georisorse, che già facevano dell'ambiente un importante ramo di ricerca, no? Arrivando a dei risultati tangibili che erano suscettibili di avere delle ricadute economiche sul mercato, abbiamo pensato di portare in modo più strutturato, costruendo un vero e proprio braccio operativo di questi enti che potesse agire sul mercato con delle logiche imprenditoriali e manageriali moderne, innovative anch'esse. Ecco, una domanda, adesso proviamo a entrare anche un minimo nel merito, provare a spiegare agli ascoltatori, insomma, attraverso i rifiuti, quanto biogas, attraverso le discariche, quanto biogas riuscite a produrre? Dunque, noi innanzitutto non è che noi produciamo il biogas, noi siamo una società che è partita da delle competenze sul monitoraggio dei biogas a discarica. Abbiamo attivato ricerca che ci ha portato anche a sviluppare dei prodotti innovativi che consentono miglioramenti nell'efficienza. Riusciamo a verificare e raggiungere anche aumenti dell'efficienza dell'ordine del 15% sulla produzione di biogas che va all'impianto di cogenerazione. Quindi quel rifiuto che altrimenti resterebbe inerte, che non sarebbe utilizzabile, riesce a generare biogas. Il biogas è una fonte di energia quello che fate voi è di migliorare l'efficienza della conversione del gas generato dai rifiuti in biogas. Allora provo a riformulare la domanda. È stata abbastanza chiara. Dunque provo a rispondere. Dunque noi cerchiamo di trasformare, abbiamo pensato di trasformare quello che è generalmente un problema in una opportunità, migliorando l'efficienza a tutto tondo della discarica. Quello che abbiamo cercato di fare fin dall'inizio è innanzitutto consentire agli impianti di scarica di rispondere a delle normative decisamente cogenti che le obbligano a controllare le emissioni in atmosfera. È stato abbastanza immediato, pensando di ridurre le emissioni in atmosfera, quello di attivare dei meccanismi che consentissero di trasformare questo biogas in energia. Quindi riducete l'inquinamento e quello che utilizzate diventa energia. Ecco, però posso chiedere una cosa, cioè giustificano i fatturati, in questo caso milionari, no? Nel senso, cioè, com'è che riuscite a, cioè, cos'è, dalla vendita di energia, dall'efficienza, chi è che vi paga sostanzialmente? No, dunque, innanzitutto Massa Spin-Off non è solo attività di monitoraggio sulle discariche, ma svolge tantissime attività. Siamo nati da lì, abbiamo capito che delle competenze di questo tipo potevano diventare strategiche per la nostra azienda, per cui ci siamo rivolti dal mondo delle discariche al mondo dell'imprenditoria, nel monitoraggio degli impianti e dei processi industriali, volti a capire l'origine dell'inquinante, quindi attribuire una responsabilità all'inquinante, ma soprattutto a cercare di migliorare il quadro emissivo apportando quelle modifiche, quegli apporti positivi che consentissero anche qui di aumentare l'efficienza degli impianti. Ad esempio abbiamo condotto attività per un gruppo multinazionale che era considerato come uno dei principali responsabili di un certo quadro emissivo. Ma quindi voi siete dei consulenti, mi faccio capire, com'è che vi possiamo collocare? Siete dei consulenti molto specializzati, no? Sì. Dunque, allora c'è un'attività di consulenza. Il grosso del fatturato da dove arriva? Ecco. Quali sono i settori di vendita di servizi di monitoraggio che noi effettuiamo verso compagnie di petrolifere, per esempio, per il monitoraggio delle emissioni diffuse nei siti di stoccaggio, oppure da gruppi industriali che ci chiamano per capire dove possono essere i problemi che derivano dal loro impianto produttivo. Quindi vi fanno vedere tutto, cioè vi fanno entrare nelle discariche, cioè quindi voi avete anche contezza di quello che accade in una discarica, che insomma non è una cosa, giornalisticamente è un sogno, perché soprattutto per me e per Dello Iaco che siamo appassionati ai rifiuti. Certo, sicuramente. Per fare bene questo lavoro entriamo nel merito dell'impianto, se si tratta di discarica, se si tratta di azienda o di contesto produttivo di altra natura, sicuramente entriamo in tutte le problematiche legate alla produzione. Ecco, c'è un tipo di servizio che è quello che riesce, diciamo, a generare, qual è il servizio più richiesto in genere nella vostra attività e che è quello dove poi riuscite a dare maggior valore aggiunto? Ma dunque, sta avendo sempre più spazio il monitoraggio della qualità dell'aria. In particolare molte volte lanciato, evidenziato dalla presenza di odorigeni, che sono un po' degli elementi inquinanti che hanno la caratteristica di avere un cattivo odore, quindi sono particolarmente facilmente no individuabili e percettibili. Da quello viene magari chiesto di individuare le problematiche connesse a questa tipologia di inquinante, entrando nel merito dei motivi per il quale questo inquinante. Provate a spiegargli come rendere meno esatto. Forti gli odori. Tra l'altro io ho appena detto che io e il buon dello Iago siamo degli appassionati di rifiuti, per cui la cosa, però non è ci rende contenti, sì, il fatto infatti, di sentire meno odori. Tu bloccami ogni tanto. No, l'ultima cosa, Baldi, la chiediamo a tutti, abbiamo pochissimi secondi, sì. A tutti gli spin-off, a questo punto del vostro tragitto, cioè a questo punto del vostro percorso, di che cosa avete bisogno? Soldi, comunicazione, riconoscimento, acquisizioni, che ne so. Guardi, la cosa di cui abbiamo più bisogno, e suonerà un po' strana, sono sicuro, parlando di imprenditoria e parlando di questo scenario produttivo e competitivo non facile, è la visibilità. Ecco. Cioè è difficile, veramente difficile, portare sul mercato in modo proprio la ricerca, portarla in modo corretto, trasformarla in opportunità di lavoro per tante persone. È un'azienda che fa della tecnologia, della ricerca, le proprie competenze chiave, ma a volte operiamo in quello che gli strateghi americani definiscono un oceano blu, no? L'assenza di concorrenza. Cioè, quindi il problema vero è quello di dover configurare la domanda, esatto, prima dell'offerta. Grazie Baldi. Nova Lab 24. Allora, 16:48, Luca Tremolade e Luca Dello Iacovo, due Lucchi al microfono. Passiamo a Wise Power, un'altra startup, un'altra azienda innovativa. Con un'idea molto originale anche, che è un'innovazione e che parte proprio dal rumore. La diciamo? Generare energia dal rumore, la scheda. Generare energia dal rumore. All'orizzonte la scommessa di batterie ecologiche e piccolissime, grandi quanto un capello. Wise Power è un'azienda spin-off dell'Università di Perugia. È guidata da Luca Gammaitoni, direttore del NIPS, un laboratorio specializzato nelle ricerche sul rumore nei sistemi fisici. L'obiettivo è di ricavare l'energia dalle vibrazioni attraverso dispositivi grandi pochi centimetri o alcuni micron, con applicazioni per la telefonia mobile e i computer portatili. Ma i microgeneratori sono anche in grado di alimentare sensori intelligenti, invisibili all'occhio umano. È una frontiera immaginata dalla fantascienza alcuni anni fa, e adesso è una realtà. Allora, noi abbiamo giustamente in collegamento Luca Gammaitoni, amministratore delegato di Wise Power, che sarebbe un po' potere saggio, no? Sì, la potenza saggia. La potenza saggia, ecco, questa è un po' l'idea. Sì, allora, se ho studiato bene, mi dica Gammaitoni, esistono degli orologi che possono essere ricaricati con il movimento della mano, cioè io camminando l'orologio si ricarica, e questi qui sono degli oscillatori lineari, li chiamate voi. Nel vostro caso avete fatto un passo in più. Quello che avete fatto è stato di pensare come utilizzare altri movimenti, e quindi quello che voi chiamate gli oscillatori non lineari, ma altri movimenti, altre vibrazioni, in che senso? Il problema è che il mondo è pieno di vibrazioni, soprattutto a livello molto piccolo, ci sono microvibrazioni ovunque, pensate quando andate in automobile oppure camminate, i vostri elettrodomestici vibrano. quando siete in aereo, oppure qualunque oggetto che in realtà portate con voi è soggetto a tutta una serie di movimenti, e questi movimenti avvengono a frequenze molto diverse tra loro, non c'è una singola frequenza, quindi sarebbe impossibile costruire un oscillatore che sia sintonizzato su quella singola frequenza. Per questo bisogna inventare un modo per andare a prendere l'energia laddove si trova, e che in genere è a bassissime frequenze. Ecco, il principio fisico cos'è? Cos'è un recupero di energia cinetica? È un... Sì, perfettamente, è proprio un recupero di energia cinetica, energia da vibrazioni, in particolare da microvibrazioni che avvengono a frequenze in genere molto basse. Ecco, voi riuscite allo stato attuale della vostra ricerca, riuscite ad alimentare che cosa? Beh, ci sono tutta una serie di microdispositivi elettronici che hanno consumi dell'ordine di qualche decina, qualche centinaio di microwatt fino ai milliwatt. Questo tipo, questa classe di dispositivi è oggi possibile alimentarla con microgeneratori che sono dell'ordine di qualche millimetro, o diciamo con termini di volume, pochi millimetri cubi di volume. Quindi funzionano insieme, cioè sono tanti piccoli generatori che funzionano insieme e che alimentano qualcosa di più grande, diciamo. Sì, questo è possibile, infatti l'energia in questo senso è una quantità di... Ecco, qual è la sfida adesso vostra tecnologica? Cioè, qual è l'ostacolo tecnologico su cui dovete lavorare? Poi vediamo anche quello economico. Sì, ci sono diciamo due tipi di sfide. Una è puramente tecnologica, si tratta di miniaturizzare, di scendere sotto la scala dei centimetri, dove esistono dei prototipi fatti da noi ma anche da altri, per scendere, arrivare alla scala dei millimetri e poi alla scala dei micron. Bisogna pensare, progettare e poi costruire dei dispositivi dell'ordine di qualche micron cubo, quindi sono oggetti veramente molto piccoli. Grandi quanto un capello, più o meno, per intenderci. In realtà molto più piccoli, se lei pensa che un capello va, diciamo il diametro di un capello occhio va da 10 a 100 micron, quindi un decimo di millimetro fino a un centesimo di millimetro. Questa è la scala su cui noi ci stiamo orientando. Abbiamo... E questo è un problema tecnologico. Poi ci sono dei problemi di natura scientifica che coinvolgono la trasformazione di energia. Sa, noi conosciamo molto bene le leggi che trasformano lavoro in calore, per esempio, che sono le leggi della termodinamica alla base della rivoluzione industriale. Si tratta ancora di scoprire le leggi che trasformano lavoro e calore, quindi energia cinetica, in energia ordinata a livelli delle nanoscale, quindi sotto il micron. Sì, la cosa che abbiamo capito assolutamente è che dovremmo... Tra quanto è che ci rifacciamo vivi per vederlo, questo oggetto qua? Dunque, per comperarli questi oggetti io credo che ci vogliano 5 anni di sviluppo. Ok, questo senz'altro. Noi ci faremo vivi un po' prima, in ogni caso tra 5 anni è un periodo di tempo molto lungo. Noi la ringraziamo. Le auguriamo buon viaggio, perché poi lei andrà a Shanghai, o comunque la sua azienda andrà a Shanghai. Sì. Per cui auguri in bocca al lupo, un saluto a Luca Dello Iacovo, un saluto agli ascoltatori, siamo domani alle 16.30 a Nova Lab 24. Ciao a tutti. Nova Lab 24. Nova Lab 24.